Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar! Eccoci qua, meglio tardi che mai, visto questo. Alle 8:23 minuti siamo pronti per la pubblicità ormai. Per la pubblicità quasi, vi salutiamo subito, andiamo via, subito. No, stiamo scherzando, però insomma, cari colleghi, stateci più attenti. Dai. Allora, inizio di settimana, il voto da commentare con lo svizzero, altrimenti no, non so, con lo svizzero, ma con le città, i santi. Il voto mai santi. Esatto, allora, San Norberto, il fondatore dei Premonstratensi, chi sono un grande ordine insieme ai Cistercensi nel XII secolo. Poi San Gerardo, San Gilberto, Sant'Icone, San Bessarione, Cerazio, Eustorgio e poi il santo che veramente mi ho appreso l'esistenza di San Colman, che io tutte le volte che scopro che ci sono dei santi di questo tipo dico bah. Oggi nel 1944 c'era il D-Day, c'era lo sbarco, oggi nel 1933 c'era il primo locale per toccarsi guardando comodamente in auto un film, cioè questa roba qua, nel 33, nel New Jersey, questa, drive-in esattamente, e per il resto che cosa ricordare? Che oggi, ohimè, moriva Cavour nel 1861 e oggi ohimè moriva Bob Kennedy nel 1968. Ma due giorni fa invece nasceva e allora campane a festa per il cardinal Giannino. Dai, troppo. Signori, che meraviglia, ragazzi. È apparsa al mondo Minerva Leda Giannino. Vabbè, sì, non esageriamo. Benissimo, la mamma pure, il bispapà pure. Mi avete fatto questo scherzaccio, adesso tutti pensano che sia io a mettere questa musica trionfale, però sì, è nata come grande soddisfazione. È un trionfo, soprattutto sull'età, visto che tua sono... grande soddisfazione, no, scarsissimo impegno, però... Scarsissimo impegno, viva la mamma, grazie la mamma, grazie Breno che appena visto la sorella ha dichiarato sono in minoranza, però è così, gli ho detto benvenuto nel club, caro amico maschio figlio, quindi è così, però beh, le femmine comandano, come ho. Non vota ancora Minerva Leda Giannino, no. ma c'è e ha già ieri avuto il suo primo pacco di giornali in clinica, dov'è? Io gliel'ho portato e subito ha iniziato a piangere e devo dire che capisco, perché visto lo stato della nostra stampa informazione. Va bene. Allora, cari italiani, chiamateci per dire chi ha vinto, chi ha perso, chi ha pareggiato, chi sale, chi scende al primo turno delle amministrative. Il numero è il solito 800240024. Caro Oscar, qui ovviamente ci saranno i ballottaggi che potrebbero cambiare un po' tutto. Daranno il segno vero, perché però per me è un voto, te lo dirò subito, per me è molto interessante. Perché innanzitutto non c'è nessun vero trionfatore, ci sono molti che devono riflettere e rifare i conti. I candidati di Renzi, dopo il trionfalismo, ma anche dopo la paura, perché lui ci ha messo il referendum di mezzo proprio perché aveva capito che il risultato era un granché. Però voglio dire, se vai a vedere, Roma era comprensibile visto il disastro del PD, e comunque va in ballottaggio, ma va in ballottaggio in posizioni di debolezza, non certo di apparente. Beh, anche perché c'è stato il trionfo di, pieno di voti di Virginia Raggi. L'usato sicuro Torino-Bologna non funziona più neanche lì e vanno al ballottaggio quelli del PD. Sala, insomma, Parisi ha fatto il miracolo di acchiapparlo al volo con Sala, che era protagonista da due anni La vita cittadina. Quindi vediamo, in realtà del PD l'unico a trionfare è De Luca, il cui erede a Salerno porta a casa un trionfo clamoroso. Erano il capo dello staff di De Luca e a Salerno ha stravinto 78%, cioè è tutto sommato il sindaco del centro-sinistra forse meno renziano d'Italia, cioè quello di Cagliari, Zedda, giovane di sinistra, molto poco protagonista e molto spirito di squadra, che riesce al primo turno a battere un centrodestra che lo aveva messo abbastanza in difficoltà. Quindi questo per quello che riguarda Renzi. Però i 5 Stelle vanno benissimo. Lo sappiamo, a Torino molto meglio secondo me di quanto non molto immaginassero, e ovviamente a Roma, E in altre parti d'Italia devono riflettere anche loro, però, perché ci per sono esempio, risultati... Per esempio, hanno preso a Milano, questo è stato un mistero, non sfondano mai, hanno preso il 10%, Milano, che è la città di Casaleggio, se volete. E, insomma, invece a Milano non sono per mai... Per il momento non hanno trovato la chiave, no, per dire, interpretativa. Però, effettivamente, a Roma c'è la possibilità concreta... Concretissima. Hanno triplicato i voti, erano al 12,6%. E a Torino, guarda che... A Torino sono a 10 c'è punti la possibilità da tutta la città unita contro tutti i poteri che stanno con Fassino, perché Fassino ha questa caratteristica. Poi nel centrodestra idem, perché secondo me Berlusconi ha clamorosamente sbagliato vedi Roma e quindi sì, anche perché fate deve i conti ammainare la bandiera, sì, i voti di Marchini con i voti della Meloni, ci sarebbe a questo punto la Meloni al ballottaggio, non c'è dubbio. Quindi... Dopodiché Salvini contemporaneamente, beh, uno vede Milano, insomma, la Forza Italia scassata com'è, ma quasi la doppia nei voti a Milano. Quindi io vedo che da tutte le parti tutti devono meditare. E naturalmente se il PD la zecca nel secondo turno, insomma, Renzi è un po' meno in difficoltà, ma potrebbe esserci un risultato che è di grande difficoltà. Eh sì, perché è chiaro che bisogna aspettare 15 giorni, ma Renzi, il PD potrebbe perdere Roma, Torino, addirittura Bologna, potrebbe Milano essere... più che Torino, Milano, perché stanno a un'incollatura Milano, proprio a Milano, e addirittura anche Bologna vanno al ballottaggio, però è un po' più difficile. Se invece dovesse vincere, che ne so, Milano, Torino, Bologna, potrebbe dire vabbè, abbiamo limitato scarso danni, entusiasmo, viva la grande prova elettorale degli svizzeri, lasciamolo dire, 5 secondi, dire no al referendum al 77% a 2.500 euro a tutti, 2.250, non era così scontato, no, grande paese, io dico deleghiamo loro il governo. Ma dici grande paese perché sei contento del risultato? Sempre, vedi, facendo votare dal basso, nel tempo, ci sono voti ragionevoli, a noi è impedito poter fare il referendum di questo tipo perché si direbbe il voto emotivo, noi diremmo sì, dateci l'assegno. Certo, gli svizzeri dimostrano che si vota dal basso con grande responsabilità. Dichiariamo che la Svizzera, arrendiamoci in 5 minuti, deleghiamo loro il governo. Questa è la mia tattica. Questa è una tua tattica, tra l'altro un blitzkrieg, un anti-blitzkrieg dalla Svizzera. Vogliamo sentire Virginia Raggi, primo commento. Ovviamente i commenti sono abbastanza prudenti, però è chiaro che triplicato i voti dal 12,6% al 34% dà l'entusiasmo di chi è a un passo dal conquistare e diventare primo sindaco donna a Roma. I romani stanno lanciando un messaggio chiaro. Stiamo assistendo a un momento storico. È vero, è solo il primo tempo. È solo il primo tempo e ci sarà poi comunque un rush finale. Però è un momento storico, è un momento importantissimo, sia perché potrei diventare il primo sindaco donna di Roma. È molto affannata, ma anche forse molto, affannata, sì, molto concitata, insomma, anche emozionata, immagino, perché forse non si aspettava il pieno di non si aspettava il pieno, naturalmente, chiunque sia il sindaco di Roma, ricordiamo, si trova a gestire un disastro pazzesco, quindi merita auguri e solidarietà. Però la miglior battuta su Twitter l'ha fatta Luca Bizzarri, che facciamo un annuncio pubblico, un giorno dobbiamo invitare, deve venire qui, Luca Bizzarri. Esattamente. Ha detto, metterei un'ultima opzione anche per chi vince il sindaco a Roma, comunque, di poter rifiutare l'opzione per chi vince, considerato bene il disastro che dovrà affrontare, l'opzione estrema, rinuncio comunque, fare come il gran gesto, rinuncio. Vabbè, senti che ci chiamano gli ascoltatori. Marzio ci chiama da Roma, buongiorno Marzio. Buongiorno, innanzitutto felicitazioni a Giannino che condivide con me una paternità, anch'io papà della piccola Sveva, marito della signora Giulia. Lui due ne ha, però vabbè. Alziamo la media, insomma, dell'annata, contribuiamo alla natalità del nostro paese, un grande investimento imprenditoriale. Allora, sì, esattamente. Dica Marzio. Un commento su Roma, c'è oggi la ricorrenza e forse anche un D-Day per il PD, perché i candidati che sembra soffrano e le strutture che sembrano proprio le strutture del PD. Certo, Renzi non potrà gioire perché anche Sala è in, come si dice, in una situazione, diciamo, di non vittoria sicura. Allo stesso tempo la Valente e Giachetti, che sono parlamentari, gli esponenti del PD si sono trovati in difficoltà. Beh, in difficoltà, però la Valente, ricordiamo, a Napoli neanche va al ballottaggio. Esatto, quindi quella è una grande sconfitta. Giachetti, sì. Dei, di cosa? Dei partiti, dei burocrati che in qualche modo amministrano la città da anni non riescono a invertire la tendenza amministrativa di questi carrozzoni ormai, come si dice, votati a non sapersi raddrizzare da soli. E quindi un grande stimolo a una riflessione che noi lettori romani sicuramente abbiamo fatto nelle urne. Va bene, dice Mazzo, quindi anche un D-Day addirittura adesso per il PD. Vediamo un po', intanto aspettiamo i ballottaggi. Poi c'è da dire. Per carità, io voglio dire, è stato anche un D-Day per altri versi delle altre strutture politiche, diciamo, sì. In qualche modo a livello anche moderato si sono assettate in questi anni nella gestione quasi scontata. Sì, va bene, grazie Marzio. Vedremo poi al ballottaggio. Sicuramente poi bisognerà tirare un po' le fila in maniera più completa. Sì. Certo, però un altro elemento, se ci pensi, il fare l'impostazione di Renzi iniziale per il prossimo referendum, cioè o con me o contro di me, solo contro tutti, dai risultati funziona un po' poco perché non c'è la cosa bipolare. La cosa bipolare lui contro i 5 Stelle. In realtà non c'è, se uno va a vedere nei 25 capoluoghi, nella grande maggioranza, il ballottaggio è ancora destra contro sinistra, con centrodestra che dove unito va meglio di quanto non si credesse in realtà. Sì, vogliamo sentire anche Parisi, perché Parisi ha fatto già un commento, ovviamente è un testa a testa a Milano, sala Parisi, e Parisi già si rivolge a quelli che hanno votato 5 Stelle, perché chiaramente adesso al ballottaggio tutti i voti contano. Sentite Parisi. Poi dobbiamo parlare a tutti coloro che sono del Movimento 5 Stelle, perché è gente che non ama la continuità, ha votato contro la giunta Pisapia, e noi deve vedere una nuova politica che, insomma, che si è formata, che sta invita alla nuova politica e al votare chi vuole la nuova politica e anche il 5 Stelle voti, sì. Bisogna capire. Certo, Milano, essendo arrivati praticamente appaiati per poche centinaia di volte, sarà veramente all'ultimo respiro. Sì. Ci chiama Riccardo proprio da Milano. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a voi, grazie. Ma io volevo commentare un attimo invece il voto del Movimento 5 Stelle, sì. Perché ho sentito adesso la Raggi che mi dice il vento è cambiato. Ma io guardi, penso in realtà che il Movimento 5 Stelle è e rimane ancora un voto esclusivamente di protesta, e la dimostrazione è data che dove c'è invece un'offerta politica seria il Movimento 5 Stelle è inesistente. A Milano, al di là di tutto, abbiamo due candidati abbastanza equivalenti nelle, diciamo, nelle caratteristiche, e il Movimento 5 Stelle fermo al 12%. Anche meno, credo, al 10%. A Napoli abbiamo De Magistris, che è un altro candidato, ovviamente, e il Movimento 5 Stelle è finito qua. Ovviamente, cioè, l'unico dove sono andati bene è Roma, ma vengono da dei disastri di Ignazio Marino e prima, ricordiamoci, di Alemanni. Quindi sia la destra che la sinistra si è auto, diciamo, distrutta a Roma. E a Torino la destra non è riuscita a fare un candidato che sia un candidato spedibile. Quindi lei dice il Movimento 5 Stelle vince ancora e si afferma laddove proposte politiche serie non ce ne sono. Certo, c'è da Napoli, voglio dire, e poi la terra di Maio, di Fico, cioè stiamo parlando di gente anche pesante all'interno del direttorio. Ecco, il risultato di Napoli per i 5 Stelle in effetti è un elemento nazionale, non solo locale. No, ma è interessante l'analisi di Milano, di Riccardo da Milano, insomma, che proponiamo ai nostri ascoltatori, proponiamo anche al nostro ospite che tra poco sarà con noi, cioè Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, del Sole 24 Ore, e col quale continueremo a commentare i risultati. Certo Oscar, c'è anche Mastella, giustamente c'è Mastella, dove lo è mettiamo? Mastella dove in lo testa a Benevento! Non ce l'ha fatta primo turno però. Vabbè, pensava, va al ballottaggio, si illudeva, è in testa Clementone Mastella, ma ti rendi conto? Per la nostra gioia di giornalisti alla ricerca del colore. Vabbè, adesso lei si arrabbierebbe moltissimo se sentisse questa cosa. Però Clemente Mastella in testa. Andrà al ballottaggio a Benevento, e che dobbiamo fare? C'è anche questo. No, ti ho battuto con questa notizia. No, io rifletto su, capisci, la grandissima, straordinaria capacità di Giambattista Vico, cioè la storia come un circolo che si ripete, con questa cosa qui in campagna a volte è proprio così. Comunque continuate a chiamarci all'800 24 00 24, tra poco ci sarà Ferruccio De Bortoli e continuiamo a commentare, insomma, il primo turno delle amministrative. State con noi. Berlusconi ha sbagliato pesantemente, ha aiutato la sinistra a prescindere da chi andrà o non andrà al ballottaggio, ha preso la metà dei voti che ha preso Giorgia Meloni, sostenuta dalla Lega e sostenuta da me, e quindi qualcuno ha fatto male i suoi conti. Spero che non la paghino i cittadini romani. Caro Oscar, questo è Matteo Salvini, se non l'avete riconosciuto, che dice Berlusconi ha sbagliato. Cioè qui la divisione del centrodestra a Roma ha prodotto il risultato che il ballottaggio è perso. Ma io credo che loro siano ormai tutti d'accordo sul fatto che la divisione li porta giù. Il problema è chi deve fare i nomi e decidere. E ovviamente Salvini dice non sei più tu, mentre Berlusconi dice sono ancora io. Sì. Non credo che questo turno elettorale, oltre a dimostrare che divisi perdono, perché non risolve davvero questa questione, perché Berlusconi può dire sì, ma a Milano, caro Salvini, io c'ho ancora il doppio dei voti di te. Gelmini in campo, poi no, non chissà quale Gelmini, beh, doppia la Lega, e qui poco meno, ecco, per essere precisi, però 21 rispetto al... Bene, sì, uniti sì, ma chi è che deve fare la testa d'ariete? Questa questione, Berlusconi, malgrado il disastro di Roma, eccetera eccetera, nella testa di Berlusconi, magari sbaglio, ma sono abbastanza convinto che non sia risolta per niente, come dice Matteo Salvini. Comunque, la situazione del Movimento 5 Stelle, il PD e Renzi come ne esce da questo primo turno, il centrodestra come ne esce, insomma, come vedete, tanti elementi di discussione per i nostri ascoltatori e per il nostro ospite che siamo lieti di salutare. Si tratta di Ferruccio De Bortoli del Corriere della Sera, già direttore anche al Sole 24 Ore. De Bortoli, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Allora, le considerazioni come sempre sono tante, si fa sempre il gioco chi vince e chi perde il giorno dopo l'elezione, lo facciamo anche noi, insomma, chi ha vinto e chi ha perso, De Bortoli, almeno a questo primo turno? Intanto ha sicuramente vinto il 5 Stelle, perché ovviamente il risultato di Roma è un risultato ragguardevole anche dal punto di vista dell'ampiezza, certamente non l'avevamo previsto. Bisogna dire che poi i 5 Stelle non si sono presentati nella gran parte dei comuni, insomma, hanno rinunciato poi a lanciare una sfida. Loro dicono che sono sul territorio, però bisogna anche dire che in molti comuni non c'erano. E anche laddove hanno avuto dei risultati inferiori, però insomma possono anche essere decisivi nel ballottaggio, insomma. E quindi da questo punto di vista dobbiamo poi aggiungere anche Torino, perché l'Appennino ha fatto un buon quoziente e ovviamente ha le sue possibilità al ballottaggio con Fassino. Poi ovviamente si può dire che il PD naturalmente ne esce un po' ridimensionato, però bisogna anche dire che è passato al primo turno in tre comuni, è andato al ballottaggio con Giachetti, cosa che peraltro devo dire all'inizio della campagna elettorale non era nemmeno prevedibile. Insomma. Sì. Quindi insomma, preoccupa un po' dal punto di vista del PD il risultato milanese, perché probabilmente si aspettavano qualcosa di più, sala. Si aspettavano un vantaggio, mentre dagli ultimi dati mi sembra che ci siano soltanto 4.000 voti di differenza. Sì, sostanziale parità, quasi un 0,8 percentuale. Prima, De Bortoli, un ascoltatore però ci faceva una considerazione sul Movimento 5 Stelle anche interessante, cioè laddove in realtà c'è una forte proposta politica, Milano per esempio, sì, ma anche Napoli, discutibile o no come proposta politica, ma c'è forte, il Movimento 5 Stelle non ottiene tanti voti. Questo a dire che è ancora veramente un voto forse di protesta, di Beh, insomma, diciamo che il Movimento 5 Stelle riempie un vuoto e naturalmente raccoglie ancora un voto di forte protesta, antisistema, cioè un voto di contrasto, di negazione, quasi di schiaffo al potere. Insomma, così dobbiamo interpretarlo a Roma, anche perché se andiamo a vedere il programma della Raggi, francamente io chiederei ai romani che hanno votato, sì, ma guardate che il programma della Raggi è un programma sul quale c'è molto da discutere. Vabbè, possiamo dire che soprattutto nel caso romano dei veri e grandi problemi della città si è poco discusso e poi c'è stata una sorta di omertà sul problema della spesa pubblica, sul problema del debito, della gestione del debito. Nessuno ha detto niente sulle municipalizzate, tutti hanno cercato in qualche modo di ingraziarsi il voto dei dipendenti comunali, che sono una forza rilevante. Sì, proprio così, sono completamente d'accordo, la prima e l'ultima parola che ha detto Ferruccio De Bortoli. Contemporaneamente però, se ci spostiamo un secondo all'interno del PD, è chiaro che il tentativo del Presidente del Consiglio, partendo in quarta con la campagna referendaria, accavallandola per scolorire e far sparire quasi questa delle amministrative, rivelava il timore che il risultato potesse essere. Credo che lui abbia voluto depotenziare un po' il voto delle amministrative, perché se lo aspettava. poi generalmente le amministrative un po' puniscono chi sta al governo, no? Un po' sempre successo. Però forse è stato sottovalutato l'effetto che, mettendo molto enfasi sul referendum di ottobre, tra l'altro non sappiamo nemmeno quando andremo al voto, ecco, piccolo particolare, insomma, c'è stato forse un effetto contagio, nel senso che al voto ieri qualche componente che guarda quello che accadrà a ottobre forse c'è stata anche dal punto di vista psicologico, e quindi è probabile che ci sia stato anche un voto contrario. Si è molto polarizzato il quesito referendario in generale, e forse già forse queste prime amministrative sono il primo atto di una lunga cavalcata elettorale. Perché tutto sommato poi i candidati più renziani del PD alla guida delle regioni città non sono quelli particolarmente, adesso va bene l'exploit di Giachetti, che però resta molto lontano rispetto alla Raggi, per il resto a passare di quelli del centrosinistra al primo turno dei pochi, dei tre capoluoghi ricordati, non sono i renziani in buona sostanza, perché non lo sono certo a Salerno, non lo è nemmeno a Cagliari, e così via. Quindi in realtà bisogna vedere se l'impostazione un po' rodomontiana ne ha come effetto una riflessione e un ammorbidimento, oppure diventa ancora più esulcerata. Sì, e qui potremmo vederla al secondo turno, esatto. Ecco, perché poi al secondo turno, se dovesse vincere a Milano, a Torino e a Bologna, poi il risultato complessivo non sarebbe così negativo. Male, certo. Ecco, poi alla fine. Certo, non ci sono quelle praterie verdi che si erano dischiuse col 40,8% delle europee, quello forse è un refrain politico che credo che Renzi non riproporrà, insomma, anche perché i dati oggettivi sono quelli. Ma invece preoccupa un po' l'astensionismo, perché io ho guardato i dati su Milano e Torino. Tra Milano e Torino hanno votato meno del previsto, insomma, certo, è un dato inferiore al dato medio nazionale. È vero che prima si votava in due giorni, che è difficile fare i confronti con altre epoche, però a Torino in 15 anni si è perso il 25% dei votanti alle comunali, che non è poco. No, non è poco. E a Milano, che credo che l'ultimo dato sia stato del 54%, anche rispetto al 2011 c'è stata, diciamo, una significativa flessione. Quindi il problema serio per tutti i candidati è quello poi di portare al voto i propri elettori, non tanto di conquistarne in altri campi. Chissà se ha giocato in questo anche un po' il ponte, voglio dire, qualche giorno di vacanza. Sì, ma insomma, ovviamente questo ha giocato. I due giorni certamente facevano crescere di 2 o 3 punti l'affluenza. Molto significativo. Preoccuparci dal punto di vista dello stato di salute della nostra democrazia rappresentativa, perché anche in città come Milano, dove c'è stata una campagna elettorale fatta di proposte, di cose concrete, anche con un certo fair play fra i due candidati, cioè abbiamo sperimentato e sperimentiamo a Milano un bipolarismo sano, no? Due candidati di qualità, diversi ma per certi versi simili, insomma, che comunque si sono confrontati, eppure una campagna elettorale che non ha scaldato tantissimo gli animi. E quindi il problema sarà poi quanti ne portiamo di quelli che hanno votato ieri il 19 giugno, e quella sarà anche perché poi il rischio del secondo turno, così diciamo prolungato, avanzato nel calendario, è che le famiglie partono, vanno al mare, non tornano a votare. Invece a favore del fatto che molti andranno a votare, che molti si aspettavano già, vabbè, ma il primo turno, non so, a Milano, tanto si sa chi va al ballottaggio, vada a votare solo al ballottaggio. Questa è un'ottima considerazione, sì, è ovvio. Poi bisognerà vedere tutti questi risultati delle liste, anche se poi il confronto sulle liste, visto la grande quantità di liste civiche, francamente lascia un po' il tempo che trova. Però, per esempio, ho visto che quelle liste d'appoggio hanno delle dinamiche particolari, che a Roma o in altri posti, anche a Milano, insomma, vanno osservate con una certa attenzione. Ma nel risultato della destra, De Bortoli, c'è un responso al problema che era aperto con durezza da Salvini alla Meloni verso Berlusconi? Per la prima volta non solo la totale irrilevanza di Berlusconi, ma persino il fatto che è negativo l'apporto di Berlusconi. E questo loro fanno finta di niente. Perché Marchini ha preso meno voti abbracciato a Berlusconi di quanto ne avesse preso da solo. Marchini da solo prendeva di più. Eh sì. Non so dove prendeva di più. Adesso io vedrete che ci sarà la gara a non farsi sponsorizzare da qui al ballottaggio, no? No, cioè di evitare i promotori. Tutto sommato credo che nel buon risultato di Parisi, perché effettivamente è un ottimo risultato, da dove è partito, ci sia il fatto che paradossalmente è stato avvantaggiato dal disfacimento dei partiti sì, che lo sostengono. Perché è apparso un candidato più civico. Sì. In realtà dietro ci sono ovviamente i partiti, ci sono, però è come se fosse stato abbandonato o non, e quindi lui ha anche giocato su questa sua indipendenza. Avete visto come ha svicolato gli incontri con Salvini e tutto sommato anche con Berlusconi. Credo che non si auguri un comizio finale con Berlusconi che gli mette la mano a questo punto credo no. Proprio ma staremo a vedere. Noi intanto la ringraziamo, Ferruccio De Bortoli, grazie per questa analisi. Buona giornata a tutti, a lei ovviamente, e sentiamo Giovanni che ci chiama da Milano. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Giannino e congratulazioni e auguri per la bimba. Grazie. Eccolo. Senta, io sono un pentastellato convintissimo. Sì. Però voglio dire, bisogna tener conto anche dei candidati che sono. La Raggi a Roma è un discorso, il candidato 5 Stelle a Milano è un altro. Un'altra personalità, un'altra persona. Per cui non è... Non ha bucato. Poi ricordiamo che è stata cambiata in corsa. Prima era un'altra, era Patrizia Bedoli. Avrebbe bucato ancora meno. Però vedi Giovanni, noi stavamo discutendo prima con Alessandro durante la pausa esattamente di questo. È come se ci fosse una specie di grande... autotrattenimento nell'individuare figure alla testa delle battaglie locali, amministrative e politiche che siano troppo protagoniste. Questo è evidente, nell'atteggiamento della guida nazionale, e secondo me ci si perde un po' a questo. Non so come la pensi tu Giovanni. Sì, un pochino sì, è vero, avete ragione. Però per quanto riguarda Roma volevo aggiungere un'altra cosa, se era possibile, che sembra che a Roma, comunque io sono contentissimo che è andato sulla Raggi, anche se per me Roma... Non è andato su ancora nessuno, Dopo scontato l'entusiasmo. Però voglio dire questo, che sembra che a Roma i candidati abbiano fatto anche di tutto per perdere i voti. Berlusconi che propone Bertolaso e dopo lo ritira. Non c'è dubbio. La Meloni. Ma la gara non avere la patata in mano di quel disastro di Roma. Addirittura si è parlato e ne aveva parlato la senatrice Taverna dicendo ci vogliono far vincere. Quindi a questo punto gioite se è così, visto di che lei è del Movimento 5 Stelle. Sarà di questa compito non improbo, tragico, fare il sindaco per chiunque egli o ella sia. Come dice Luca Bizzarri, la possibilità di rifiutarsi comunque. Ovviamente è una battuta. Del resto si dimettono i papi, esatto. Vabbè, caro Oscar, caro cardinale, caro dobbiamo fermare qui per oggi. Ci siamo qui. Io vado subito in cappella a pregare per la mia nuova nata, subito. Minerva Leda Giannino, chissà Brenno Aiace Giannino come ci odierà in questo momento, minoranza, povero maschio. Minoranza. A domani. Viva Margherita. Ciao. Diciamolo a voce alta, vogliamo Oscar Giannino, sindaco di Roma e vice sindaco a Lino.